already know the answer. You are a disgrace. 野蛮的野中友好协会主席加迈尔。Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Good morning. Last night I had a warm conversation with President-elect Barack Obama. I congratulated him and Senator Biden on their impressive victory. E questo è il modo composto e, se me la passate, addirittura grazioso con cui George W. Bush ieri ha dato il suo personale benvenuto al nuovo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, accingendosi, inaugurando la transizione, questa fase che durerà 2 mesi e mezzo, attraverso la quale ci sarà il passaggio di consegne tra il presidente uscente, il 43esimo presidente George W. Bush, e il nuovo presidente Barack Obama. Lo ha fatto in modo succinto, stringato, efficace, e ha a tutti gli effetti aperto questa nuova fase della politica americana, a cui dedicheremo particolare attenzione in questi giorni. Poi uno compra il New York Times, va alla pagina degli editoriali e prova a leggere, ad esempio prova a leggere quello che scrive Nicholas Kristof, uno dei grandi editoriali del giornale di New York, e legge: l'America è più che un posto. Quando è al suo meglio diventa anche un'idea. Noi americani abbiamo periodicamente tradito l'idea di uguaglianza e di opportunità, ma la sera di martedì noi l'abbiamo rivitalizzata in modo potente. Poi si legge Maureen Dowd, la signora del giornalismo americano, che scrive: ho passeggiato martedì notte fino alla Casa Bianca e mi sono appoggiato al suo steccato, alla ringhiera che la circonda. Mi sono chiesta com'è possibile che un posticino così delizioso trasformi i suoi inquilini in dei pazzi. Non c'era nessun camion dei traslochi. Io non so se George W. fosse dentro a parlare con i quadri appesi al muro, o se i quadri fossero già svaniti dalle cornici, come capita alla Hogwarts Academy, no? Quella di Harry Potter, per scappare dal fatto che George W. avesse deciso di indottrinarli riguardo ai meriti della sua gestione. O ancora si può leggere il grande Roger Cohen, che scrive: oltre l'Iraq, oltre l'economia, oltre la salute pubblica, c'era qualcosa di ancora più fondamentale in palio in queste elezioni americane vinte da Barack Obama: l'autorispetto, l'autoconsiderazione del popolo americano. Dopo aver preso fiato a un certo punto anche i giornalisti americani nella giornata di oggi hanno temperato la matita, come si dice, hanno provato a dare del loro meglio, a scrivere articoli appunto in punta di penna per esprimere, per raccontare i sentimenti di questo grande shock collettivo che coincide con l'elezione di Obama, con la quale anche in Italia si sta facendo i conti in tutti i modi possibili, compreso i paragoni con la nostra situazione, le nostre opportunità, il pensiero di una nostra eventuale post-politica. Di questo ci occuperemo, anche di questo ci occuperemo intensamente nei prossimi giorni, ma invece adesso non perdiamo l'occasione di tornare a fare un salto nella città che, dopo essere stata chiamata per oltre un secolo The Second City, no? La seconda città, perché dopo New York sembrava esserci solo Chicago, poi invece le cose sono andate un po' diversamente, ma quella città resta meravigliosa e tra l'altro ha un cuore culturale formidabile, oltre che sontuoso, oltre che severo, oltre che quasi commovente già soltanto a camminarci dentro. È l'Università di Chicago, quella dove insegnava Leo Strauss e dove in questo momento so essere seduto su panchina, a dispetto del tempo di quelle parti, perché a Chicago, se c'è una cosa che non ha mai funzionato, è il tempo. Il nostro Sergio Nava, l'inviato di Radio 24 da quelle parti, che saluto. Buon mattino a te, Sergio. Buon pomeriggio. pomeriggio a te, Stefano. Allora, prima di tutto, toglici la curiosità di sapere che cosa ti trascina, insomma, fino all'Università di Chicago, tempio della cultura anche politica, insomma, nel dopo grande emozione, invece che andare a vederti un filmetto, hai scelto di proseguire nel solco serio, diciamo. Sì, beh, anche perché fino a quest'ora non penso nei proiettili, no? Ma sì. E soprattutto la curiosità è quella di capire un po' anche la reazione del voto, della reazione dei giovani. Se c'è una cosa, Barack Obama ha attirato proprio il voto di un'intera generazione che probabilmente fino a pochi mesi fa neppure si interessava alla politica, neppure sapeva cosa significasse fare politica, e si è ritrovata improvvisamente attirata da questa vera e propria rockstar che ha saputo trasformare persino il suo discorso di investitura, il suo primo discorso al presidente, in una specie di Woodstock a cielo aperto. Certo. Hai fatto degli incontri, delle interviste, hai raccolto dei pareri significativi nel dopo elezione? Sì, diciamo in università ancora no, perché ci sono appena arrivato, e come tu saprai anche meglio di me, perché so che tu sei un grande e profondo conoscitore di Chicago. Questo è un vero e proprio, è una vera e propria città nella città, è impressionante. È anche un gran bel posto, tra l'altro. È anche un gran bel posto. Sì. Purtroppo qui ancora no, anche perché ci sono appena arrivato e sono passate da poco le 9 del mattino. No, l'incontro forse più significativo che ho fatto è stato ieri con il reverendo Alvin Love, tra l'altro. Anche un'intervista abbiamo trasmesso poche ore fa all'interno di GR Extra Large. Un incontro interessante, perché ho avuto modo di calarmi, anche se solo per poche ore, all'interno della comunità afroamericana di Chicago, il South Side, dove effettivamente la stragrande maggioranza della popolazione è di colore. E ho potuto parlare anche con qualche fedele della Chiesa Battista, del reverendo Love, che era semplicemente entusiasta, estasiato dall'elezione di Barack Obama. C'è chi mi ha detto: io lo sapevo, lui era un predestinato. Quando l'ho visto ho capito che lui era un predestinato. C'era chi mi diceva: io non ci posso credere, conosco il presidente degli Stati Uniti d'America. Questo fa capire quanto Barack Obama in realtà venga dal basso. Non so quanti possono dire: conosco Hillary Clinton di persona, se fosse stata Hillary Clinton ovviamente a venire eletta, o John McCain, poniamo solo questo. Ma la cosa forse più interessante, mi ha detto Love, che purtroppo poi non abbiamo potuto trasmettere il tutto anche per motivi di tempi radiofonici, ma che ci tenevo a dire, quando gli ho chiesto che cosa veramente Barack Obama ha cambiato in quegli anni da organizzatore di comunità a Chicago negli anni '80, lui mi ha detto: non tanto i progetti, però i concreti, i progetti forse più che rimangono, ecco, ma il metodo di lavoro. Barack ci ha insegnato come lavorare. Lui è arrivato, noi avevamo c'era un approccio abbastanza aggressivo nei confronti dei politici, cioè si facevano assemblee, li si prendeva a pesci in faccia dicendo tutto quello non andava, poi però si finiva l'assemblea e tutti tornavano a casa. Lui invece ha costruito dei gruppi lavoro all'interno di ogni chiesa, ha messo le chiese in rete, ha costruito gruppi lavoro che capissero quali fossero i bisogni reali, i problemi reali della gente, ha individuato delle aree e poi ha fatto in modo che l'agenda di queste comunità di lavoro diventasse l'agenda dei politici. E Love ancora oggi ricorda, il reverendo Love ricorda ancora oggi, quasi con commozione, il giorno in cui, dopo una di queste assemblee, un senatore gli si avvicinò, mi ha detto, mi tirò per la giacca e mi disse: ti vanno bene $200,000 per il tuo programma di prevenzione delle droghe? Beh, questo è il metodo che Barack Obama ha lasciato, e questa è l'eredità che ha lasciato nel South Side di Chicago. Grazie, ti ringrazio Sergio di questa testimonianza, che tra l'altro rispecchia un po', Sergio lo ha riferito con grande precisione, quella che è una sensazione che chi è passato da Chicago per qualche volta negli anni scorsi ha certamente ricevuto, ovvero che nel microcosmo, se si può parlare di microcosmo di Chicago, perché resta comunque una metropoli grande, importante, complessa, in realtà ciò che è avvenuto nel corso del 2007-2008, soprattutto 2008, ovvero l'innamoramento potente di una nazione e direi anche di cospicue porzioni del mondo nei confronti di un uomo dall'impronta leaderistica così intensa come Barack Obama, in realtà era successo circa 4 anni prima su base locale, su base cittadina, nel 2004-2005, quando poi Barack vinse a valanga, come vince evidentemente le cose lui, la elezione, il seggio di senatore per lo stato dell'Illinois, essendo solo il terzo nero, se non sbaglio, nella storia degli Stati Uniti a raggiungere un risultato del genere, quindi la storia già l'aveva scritta prima, anche se in scala leggermente minore, Barack Obama, si andava a Chicago e si assisteva su base locale esattamente allo stesso fenomeno, una città pazza di passione, d'amore per questo personaggio, per questa personalità, e soprattutto non potevi girare angolo e incontrare una persona, mi ricordo, non so, dal celebre scrittore Scott Turow, no, che tutti conoscete, fino al politico di quartiere, fino allo studente che dicesse Barack, ma Barack lo conosco, è amico mio, perché tutti sono amici di Barack, beato lui che ha tanti amici, chissà la pagina su Facebook, bisognerebbe andarla a visitare, è un uomo formidabile e un giorno diventerà presidente degli Stati Uniti. Hey! Luciferina, la canzone d'amore che state ascoltando adesso, Screaming Jay Hawkins, no, I put a spell on you, io ti schiaffo addosso una maledizione. E come già peraltro ci stanno caldeggiando diversi ascoltatori, perché ci occupiamo soltanto di Barack Obama e non parliamo anche di altri voti che sono andati in scena in questo famoso martedì 4 novembre, ad esempio quello che riguarda un referendum molto importante, molto sentito e conclusosi in modo piuttosto sorprendente, perché adesso i matrimoni omosessuali tornano fuori legge in California, che peraltro è lo stato più popoloso dell'Unione, di solito modello, no, per il resto d'America. Percentuale del 52% è stata approvata la Proposition Number 8, la proposta numero 8, con la quale i californiani hanno sancito per la seconda volta in pochi anni che il matrimonio è e resta un'unione tra un uomo e una donna, rimettendo in dubbio dunque la legalità di migliaia, esattamente 18.000 matrimoni omosessuali celebrati negli ultimi 4 mesi e mezzo in quello stato. Il provvedimento è importante, è destabilizzante, ha immediatamente risvegliato reazioni allarmate, non solo in America, dove peraltro si sta cercando di correre ai ripari, ma in mezzo mondo, dove l'esempio americano, esempio californiano tanto più, sembrava un po' fungere da apripista a tutta la questione. Abbiamo chiamato Carlo Guarino, voce per carità storica e venerabile di Radio 24, nonché consigliere nazionale di Arcigay, per fare quattro chiacchiere al riguardo. Buon pomeriggio Carlo. Ciao Stefano, ciao, tu sei storico e venerabile, per carità. ma non attribuire a me. Mi stai prendendo in giro. Senti un po', che aria tira? C'è molto malumore e ci sono, mi sembra, delle polemiche già addirittura che vanno oltre. Sento che la politica italiana, per esempio, si sta schierando anche in modo non perfettamente prevedibile sulla questione, e forse tutto questo Obama sta tenendo un po' sommersa una storia che ha invece dei presupposti seri, vero? Una storia difficile da descrivere, sì, perché in realtà la prima cosa che ho pensato è: meno male che non ho pagato i pacchetti che tante agenzie di viaggio vendevano in giro per il mondo per andare in California a sposarmi, come qualcuno stava pensando di fare, certo, per poi trovarsi il matrimonio nullo qualche mese dopo. Ne avevamo parlato sempre in studio da te a maggio, certo, festeggiando, certo, le prime nozze gay. Certo. In realtà il risultato è sicuramente controverso, perché la vittoria di Obama ci ha fatto sognare il suo straordinario discorso quando ha citato chiaramente le, certo, persone gay, le persone, certo, lesbiche, certo. E quando sono arrivati i risultati del referendum, andando ad analizzare il voto in uno stato tradizionalmente progressista come la California, si è visto che il matrimonio gay è stato bocciato, mentre in altri stati dell'Unione, anche più conservatori della California, per esempio, venivano dei referendum, sostenevano provvedimenti come la legalizzazione delle droghe leggere a fini terapeutici, sostenevano l'aborto. Quindi è una lettura un po' controversa, e sembra quasi dire che sulle tematiche dei diritti gay anche le forze progressiste fanno bene a fare qualche passo indietro, o meglio, sono alcune forze politiche italiane che danno questa lettura, senza comprendere poi a fondo la complessità del fenomeno americano in seguito. Cioè, tu tra l'altro mi stai dicendo quindi che per l'etica americana il aperte virgolette peccato, chiuse virgolette, di omosessualità resta il più estremo e il più difficile da ingoiare da un lato, se capisco bene. Una prima lettura del risultato delle urne sembrerebbe di sì. In realtà poi questa è una lettura molto semplicistica che si cerca di far passare qui in Italia. L'America, secondo me, sconta 8 anni di presidenza Bush in cui alcuni temi come le nozze gay, l'aborto, l'eutanasia, temi che stanno emergendo con grande attualità anche in Europa e in Italia, che forse adesso sono stati messi un po' in secondo piano dalla crisi economica, ma comunque gli 8 anni di Bush non sono passati, hanno cambiato, secondo me, il codice genetico della cultura americana. Ecco, ma dal momento che tu, ad esempio, svolgi un lavoro anche di militanza, comunque attivo nei confronti di questioni di questo genere, quanto conta l'esempio, l'apripista americano in una storia di questo genere, e quanto conta al contrario, per esempio, quando succede una cosa così? Per esempio il palazzo con la P maiuscola italiana ne risente subito, ne tiene conto, e quindi è un ostacolo in più da superare? Secondo me, più che altro, rispetto il palazzo non ne tiene conto, altrimenti avrebbe guardato anche altri fenomeni. Secondo me il vero messaggio pericoloso che ci arriva è di carattere culturale, cioè questo vento di destra mondiale, questo vento conservatore mondiale di cui avevamo parlato anche mesi fa, con la vittoria di Sarkozy, con l'affermazione sempre maggiore nel consenso popolare dei conservatori, per esempio in Gran Bretagna, dimostra che nonostante vinca Obama, quindi un leader molto progressista o che si presenta come tale, sicuramente c'è uno spostamento dell'asse culturale verso valori più conservatori. Questo poi è pericoloso. Rispetto poi alla capacità del nostro palazzo di intercettare effettivamente quello che avviene sul palazzo sul piano culturale, ho poi i miei dubbi. Visti gli effetti della vittoria di Obama, che insomma lo stanno sbranando, no? Facendo a brandelli per impossessarsene, per metterci un piede sopra. Siamo tutti amici di Obama. Tutti avevamo sempre di Papa Obama. Senti, va bene, chiuderei sdrammatizzando comunque questa dimmi. Ha lasciato molta amarezza. Immagino. Prima guardavo forum, blog, Facebook di gruppi gay mondiali, e non sappiamo che cosa fare a questo punto. Certo, bisogna vedere. È una vittoria dolce e amara. Tra l'altro ci sono anche dei ricorsi già annunciati, anche perché naturalmente molte delle coppie gay che si sono sposate in questi pochi mesi adesso hanno paura di una possibilità di annullamento, quindi di finire in una specie poi di limbo, no? Di status nel limbo. Non si capisce più se si è sposati, autorizzati a farlo, non più sposati o cos'altro. Vorrei, per concludere e per sdrammatizzare a questo punto, anzi in termini ufficiali, una posizione, magari solo in termini personali, una posizione nei confronti del ragazzone, insomma, di Arnold Schwarzenegger, governatore della California, che ha sempre posto il veto e adesso, a botte di referendum sulla questione, l'ha avuta vinta. Come lo vogliamo inquadrare il nostro Terminator? Spero che non rivesta incarichi nel governo di Obama, come ho letto anche su qualche quotidiano italiano. Sicuramente ci fa capire anche che quella ventata di novità che alcuni politici, che più che portare contenuti rappresentano un marchio, va analizzata a fondo. Diciamo che come Icona Gay non va fortissimo, insomma. Come Icona Gay? Hai più punti tu, ma bene. Senza dubbi, è ormai un'icona gay stagionatissima Schwarzenegger. Anzi, posso lanciare un referendum a questo fine per scegliere, per sancire l'ufficialità del tuo ingresso nell'Olimpo dell'icona gay. Certo, al posto di Arnold, va bene, ti ringrazio, ci penserò e buon lavoro, Carlo Guarino. Dunque, su Fox News c'è quello, se mi permettete, squalo di Bill O'Reilly, uno dei giornalisti più cattivi, forse il più cattivo d'America, che sta facendo un bel servizione sulla lite in famiglia nel ticket repubblicano. Insomma, sta cercando di guardare un po' sotto i tappeti, sotto il letto, no? Dove si nascondeva magari l'immondizia così meno gratificante. Sostiene che McCain e Palin in realtà si stavano cordialmente antipatici l'un l'altro. McCain non aveva stima politica della Palin, e la Palin era un po' infastidita dal, aperte virgolette, vecchio, chiuse virgolette. C'è un'intervista con lei che appare veramente in versione dimessa, no? Con una tuta nera addosso, l'aria spettinata, insomma un po' a lutto, no? La faccia proprio contrariata, meno make up di prima, fa le smorfie, si vede che non è per niente contenta di come sono andate le le cose. Beh, difficile pensare il contrario. CNN invece informa che, a proposito di quanto appena commentato poco fa con Carlo Guarino, a Los Angeles in particolare le cose si stanno muovendo, la città è attraversata da disordini, ci sarebbero migliaia di persone che protestano per le strade della metropoli californiana in favore contro l'abolizione del matrimonio omosessuale, e pare che la protesta si stia ampliando rapidamente. Pensate che qualcosa del genere invece è stato approvato in referendum non proprio simili ma risonanti in Florida e Arizona. Se ne viene fuori un signore che si chiama Ron Prentice, di una organizzazione protectmarriage.com, proteggi il matrimonio, che dichiara è un grande giorno per il matrimonio, il popolo della California si alza in piedi e applaude al matrimonio tradizionale e reclama indietro la sua grande istituzione. Oh, avevamo nostalgia di caro amico del nostro programma che agisce professionalmente, anche emotivamente, nell'altra parte del mondo, che abbiamo un po' lasciato indietro in questi giorni, ma non vi preoccupate, si tornerà a parlare di Cina e non solo di Cina, calorosamente, a partire da praticamente subito. Però una telefonata a Saro Capozzoli ce la siamo consentita, anche perché vogliamo capire, insomma, in questo grande effetto globale, quel miliardino e tre circa di abitanti della Repubblica Popolare Cinese, come l'hanno presa, come la vedono, come se ne parla in giro. Ma prima di tutto voglio salutare Saro nella notte di Shanghai. Ciao Saro. Ciao, buonasera. Senti un po', ma prima di tutto vorrei fare una, come si dice, una breve premessa, ma in forma di domanda. Ma i cinesi, in linea di massima, degli americani, che cosa pensano? Cioè l'americano, il turista americano al cinese della strada, il tassista, il negoziante, quant'altro, come sta? Simpatico, piacevole, incuriosente, che cos'è? Ma diciamo il rapporto con l'America, gli americani, è un rapporto un po' strano, un po' conflittuale, no? Nel senso c'è un odio amore, un odio perché si vede l'America, l'americano, come un concorrente da battere, no? In tutto, anche perché diciamo gli ultimi anni sono stati abbastanza tesi, no? Tra l'America e la Cina a diversi livelli. Amore perché sono un modello, perché il modello sviluppo delle città che abbiamo qua in Cina rimarcano un po' anche il modello americano, ma anche tanto il sistema sociale sanitario cinese è uguale a quello americano. E succede però a volte, come è successo ad esempio a me, parlare proprio di tassisti, quando c'è stato il bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado, no? È stato così nel 99 mi sembra, e mi è capitato anche di cinesi e di tassisti che mi chiedevano da dove venissi, perché se fosse avessi risposto che fosse americano mi avremmo lasciato a piedi, ecco. I cinesi sono molto sanguigni su questo, ecco. Quindi infatti io ho scoperto che c'erano amici canadesi, australiani, americani che si spacciavano per canadesi, australiani, per poter girare per la città, no? Ecco, poi ovviamente poi le cose si sono un po' rapacificate, eccetera, ecco. Quindi è un rapporto un po' strano, ecco, un odio amore, un po' il riassunto di quello che si può dire. Senti, l'effetto Obama si è sentito da quelle parti? Diciamo che prima di ieri avrei detto cose diverse di adesso, ecco, nel senso che poi ora vi spiego, perché in verità ai cinesi non interessa chi c'è il potere in America. Ad esempio ho parlato con molta gente, sì, ma tanto non cambia nulla, sono repubblicani, democratici, fanno sempre la stessa politica. Io ho citato Clinton, che per qualche motivo ha fatto bombardare, è stato per sbaglio, non si sa, l'ambasciata cinese a Belgrado, che ha avuto questo rapporto con questa prima tensione, i primi mesi ha avuto questa tensione con l'aereo spia abbattuto ad Hainan nel 2001, e poi tutta la teoria delle guerre preventive, eccetera, che è un po' innervosito, ecco. Quindi quello che adesso sono curiosi di vedere un po' quello i prossimi passi. perché ho detto che ho visto che l'America finora ha avuto la stessa posizione sulla Cina, cioè con la Cina per quanto riguarda per esempio l'ambiente e per quanto riguarda la risposta da dare all'Europa sul Kyoto, per dire, certo. Adesso con un nuovo presidente stiamo a vedere che cosa cambierà, no? Anche sui rapporti fra i due stati. Ecco, ma la tua sensazione invece da osservatore esterno, diciamo un po' da mediatore tra la cultura cinese e quella occidentale, è che un personaggio che ha sollevato un tale entusiasmo, una simile popolarità proprio di pelle in tutto il mondo, anche dalle parti di Shanghai e di Pechino, potrà ottenere effetti magari anche importanti, anche decisivi, anche con delle finalità pratiche, ad esempio nel grande mondo dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Obama potrebbe essere un agente di positività, o invece ritiene il contrario? Beh, Obama rappresenta quella fascia di corrente di pensiero che cerca il dialogo con la Cina, ma il dialogo è sicuramente non un dialogo d'amici, no? Perché c'è comunque Obama deve rispettare, deve seguire certi interessi americani, no? Nell'area. Qui stanno combattendo in questi giorni si stanno disputando delle isole nel sud della Cina, per dire. So che i cinesi hanno mandato diverse battute di navi nel sud della Cina, ci sono dei mari che arrivano quasi a ridosso del Vietnam, ma che la Cina praticamente le vuole a sé per poter fare le esplorazioni petrolifere, e ci sono le navi americane attorno che cercano di forare dove possono, no? Certo. Quindi c'è sempre un po' di antagonismo, c'è interesse e c'è curiosità, ecco, questo posso ripetere, e non c'è certamente una grande differenza. Avesse vinto anche McCain avremmo avuto le stesse reazioni, aspettiamo, vediamo. Comunque, certo. Non sono abbastanza passivi, ecco, perché hanno avuto più o meno le stesse politiche in tutti questi ultimi decenni, no? Ecco, quindi dovremmo cambiare veramente nettamente l'atteggiamento. C'è un discorso, quello che mi sento dire molto spesso, specialmente nel mondo della finanza, è questo: gli americani non hanno più nulla da insegnarci per quanto riguarda gestione, management e finanza. Cioè, non hanno più, si sono disincantati e stanno mantenendo il loro sistema finanziario così com'è, senza più scimmiottare più le grandi banche di affari, di investimento. Ecco, loro sono molto molto più conservatori adesso, molto più attenti, e hanno rivalutato i loro valori. Quindi mi stai dicendo, insomma, che la notizia sì è stata recepita, ma tutto sommato se tu vedessi i giornali italiani, ci sono dei veri lenzuoli dedicati al culto di Obama, invece da quelle parti è stata tenuta in un certo senso più circoscritta. Per curiosità e per chiudere rapidamente, perciò in fondo sulle prime pagine dei giornali cinesi, per esempio in questi giorni, in queste ore, di che cosa si parla? Raccontaci. No, si parla certamente dei grandi numeri con cui Obama ha vinto. No, ma a parte Obama, dico, a fianco alla notizia americana, proprio la notizia portante dei giornali cinesi di questi giorni, qual è? Sono gli investimenti multimiliardari che la Cina sta facendo in molti settori. C'è stato l'annuncio da pochi giorni proprio dell'investimento quasi di 100 miliardi di euro dentro le zone terremotate, certo. E altri investimenti per spingere l'economia cinese, perché qui certamente si è capito come sta andando il mondo, stanno spingendo le infrastrutture, infatti vogliono rifare 50.000 chilometri di ferrovie, vogliono separare ad esempio le ferrovie, quelle per il trasporto, per i merci, e quelle per i passeggeri. E quindi stanno dando un impulso all'economia incredibile con questo tipo di investimenti. Di questo si sta parlando? Si parla molto di economia e di investimenti sempre sui giornali cinesi. E si parla molto quindi anche di storie interne, di storie nazionali, diciamo. Sì, cose interne. Infatti anche sui telegiornali, una curiosità, si parte sempre con le notizie nazionali. Noi normalmente in Italia, io vedo, mi ricordo, cioè ci sono le notizie internazionali molto spesso, ma gli ultimi 3-4 minuti sono dedicati su 20 normalmente, e sono dedicati al resto del mondo. Alle notizie internazionali. Certamente l'elezione del Presidente degli Stati Uniti è stato dato in prima pagina in prima serata, primo minuto. Poi si è tornato subito a parlare dei congressi, ma specialmente di investimenti. Ecco, una volta si parlava molto di c'era un'autocelebrazione, adesso si parla invece di cose molto concrete. Va bene, grazie Saro Capostoli. Chissà se anche l'America di Obama, con i guai che ha, almeno nel breve termine, come dire, si isolerà un po', e come fanno i cinesi di norma, ce lo racconta Saro Capostoli, dedicheranno la gran parte della propria attenzione agli affari di casa loro. Insomma, un po' conto, caro Emiliano, di qualche scampolo di questa massa, montagna di contatti, messaggi, partecipazione al lavoro che stiamo facendo qua, insomma. Eh sì, gli ascoltatori sono scatenati. Commossi, partecipi, certo. Insomma, anche per loro è un momento importante questo 4 novembre. Certo. 2008, molte le mail e molti gli sms. Allora c'è Francesco che dice: ho pianto vedendo Jesse Jackson con le lacrime a sua volta, però esprime anche lui una grande paura che ci arriva. Tra l'altro l'hai vista l'immagine, schiacciato contro la faccia come un bambino, si era schiacciato contro la faccia una bandierina di quelle da parata, no? Quelle piccole, e stava avvinghiato a questa bandiera e piangeva di rotto. Poi dice Francesco, dice: ho sentito a suo tempo una riunione su Obama alla Trinity Church di New York, però anche lui esprime una paura che molti degli ascoltatori ci hanno espresso tra messaggi e mail: verrà ucciso come tutti i presidenti delle grandi svolte. Speriamo. Poi c'è Roberto che dice: Dio mio, che emozioni, Obama presidente, Obama scritto in maiuscolo, discorso di Barack straordinario, parole di McCain bellissime, che ammirazione, che il sogno continui. E poi dice: che cosa devo sperare, Buffett al tesoro? Domanda che giro a te, Stefano. Ma la... sarebbe bello Buffett al tesoro. Guarda, io dico una cosa: è stato la madre di tutte le campagne, come ormai viene chiamata la campagna elettorale 2008 americana, è stato uno spettacolo, credo, irripetibile. Ma ho la sensazione che la transizione, cioè i due mesi e mezzo, indicherà molte cose. No, i due mesi e mezzo che ci separano dalla presa di potere di Barack Obama, con relativa formazione del governo, non dico che sarà uno spettacolo altrettanto interessante, in parte anche divertente, ma comunque pieno di sorprese, ma qualcosa che gli somiglia, perché sicuramente si vedranno nomi a sorpresa e nomi fuori dai giri, no? E poi Roberto, nella sua mail, fa una domanda non meno importante di Buffett al tesoro, però qui più che altro è un sogno forse irrealizzabile: Kobe Bryant all'Armani Milano? Beh, c'è una vecchia relazione tra Kobe l'Italia e l'Armani, però secondo me altro bel sogno dovrebbero quello. Aspettare, poi anche a Roma potrebbe venire. Poi abbiamo un'altra mail di Paolo che dice: in America si sono sfidati due candidati che hanno vinto contro i loro stessi partiti. I democratici erano per Hillary, i repubblicani a malapena hanno sopportato McCain, mentre in Italia i partiti decidono tutto. Verissimo. I partiti sono i grandi sconfitti di questa elezione, e vincono i leader, vincono le personalità. E poi c'è la valanga di sms, ne abbiamo anche tenuti in caldo dai giorni scorsi, è difficile scegliere comunque. E adesso Michael Moore è disoccupato? Altra domanda ironica di un nostro ascoltatore. la famosa satira che soffre, no, in certi casi. Sì, poi Bruno da Genova: non ero per Obama, ma il suo primo discorso mi ha emozionato, viva l'America. Mm-hmm. Qualcun altro invece dice: diciamo la verità, Obama ha vinto perché è nero, comunque per una buona percentuale per questo, avrebbe potuto dire qualsiasi cosa, tanto gli ispanici l'avrebbero votato comunque. Questo è Jacopo. Ma gli ispanici sono stati gli ultimi a farsi commuovere, non so, farsi prendere, a farsi conquistare da Obama. Poi c'è Roby che ti chiede, ci chiede, insomma, se tutto questo rispetto che traspare dal discorso di Bush è autentico. Mi sembra che hai già risposto tra ieri e oggi, insomma. Ma gli articoli della stampa di oggi, italiana in particolare oggi, sono di una cattiveria, sono proprio penne intinte nel curaro, no? Anzi, hanno notato che da qualche parte, temo su un grande quotidiano, l'articolo di fondo diceva: Bush diceva una cosa, ma se lo guardavate negli occhi ne intendeva un'altra. Io l'ho guardato, insomma, televisivamente negli occhi, non mi sembrava che facesse altro che, in questo caso, il suo lavoro di presidente. Non sarei un po' guardingo, insomma, essere così, no? Spendiamo invece anche qualche parola per il grande sconfitto, grande nel senso che ha accolto la sconfitta con grande onore. Cioè, ma ne sono state spese comunque. John McCain, che un ascoltatore ci dice: ho un rimpianto, John McCain sarebbe stato un grande presidente repubblicano, ma nel 2000, quindi quando a sua volta fece al messaggio precedente ci pensò da più. E poi c'è Dan, nostro glorioso, incrollabile ascoltatore, certo, che dice: tutto è compiuto, Obama, il grande Obama ha vinto, ma McCain è un grandissimo signore, mentre i repubblicani non si sono rivelati tali, e quindi, insomma, bisogna fare in modo che McCain non si disperda nel nulla. Ma penso che forse un'idea di collaborazione ci sia già, non stretta naturalmente tra di loro, ma insomma McCain credo che farà il suo lavoro in Senato ancora, forse, o no? No, beh, lui è senatore, e tale resta. Chi se ne deve andare sono Biden e Obama, che dovranno dare le dimissioni, credo debbano dare le dimissioni entro un mesetto, insomma entro breve termine, e devono peraltro essere rimpiazzati. Interessante, per esempio, vedere chi rimpiazzerà che nello stato dell'Illinois, che cosa verrà espresso da quelle parti. Interessanti tanti discorsi attorno a Sarah Palin e alle sue prospettive. Interessante, e questa è una roba da mettere in circolo e su cui ragionare, l'ipotesi della tentazione che i repubblicani possano avere di inventarsi a loro volta un Obama, un giovane leader carismatico. Secondo me ce ne sono un paio in circolazione, e su questo credo che lavoreranno seriamente. C'è tempo, insomma, per ragionare e meditare su questo. Non so se c'è il tempo di dare invece qualche altra notizia che gravita comunque attorno sempre un paio, sì. A questa grande kermesse, questo grande appuntamento del 4 novembre. Intanto c'è una dichiarazione, un'intervista dell'arcivescovo di Atlanta, quindi andiamo nel sud degli Stati Uniti, via col vento, poi insomma su tutti, l'arcivescovo Wilton Daniel Gregory, che dice: siamo pronti, è cattolico, siamo pronti ad un Papa Nero, quindi dopo Obama forse un nuovo passo per un Papa Nero, quando naturalmente Ratzinger non ci sarà più. Poi, visto che Chicago è salita alla ribalta con Obama, ricordiamo, certo, Michael Crichton, che era di Chicago, scomparso, il grande scrittore di Jurassic Park, Congo, amico di Spielberg, ma anche grande regista. Io da piccolo ricordo Coma Profondo con Michael Douglas. Come no? Un film davvero inquietante, certo, e metteva veramente paura. Poi, se c'è il tempo, sempre su Chicago, vorrei citare un libro che è appena stato pubblicato in Italia da Mondadori, di Eric Larson, un giornalista. Il titolo si chiama La città bianca e il diavolo, ritorna ai tempi gloriosi dell'esposizione mondiale di Chicago 1893, subito dopo quell'altra altrettanto gloriosa di Parigi, certo, con la Tour Eiffel, ed è la storia romanzata, ma recupera i documenti dell'epoca, dell'architetto che celebrò questo grande momento per Chicago, che strappò la nomination all'Expo a New York, lo ricordo, e poi il medico che negli stessi periodi dell'esposizione approfittò della gran baraonda generale per inventarsi come serial killer, tra l'altro pochi anni dopo il celeberrimo Jack lo squartatore di Londra. Sì, da lì poi nacque la bellezza di Chicago, che è trionfante poi nell'anno 2000, no? Con l'edificazione del meraviglioso Millennium Park, un posto da perdere la testa, uno skyline firmato peraltro dai migliori architetti del mondo, che ormai supera addirittura quello di New York, e da adesso in poi anche patria del primo cittadino. Dimmi. Chicago, che adesso vuole anche le Olimpiadi del 2016. E ha un discreto testimone. Potrebbe essere teoricamente l'ultimo atto forse di Obama presidente, se fosse riconfermato tra 4 anni. E possiamo dire che c'è stata una telefonata fra First Lady, perché Michelle Obama ha telefonato a Laura Bush, naturalmente per farle in ritardo di un giorno, perché il compleanno ci avevamo azzeccato l'altra sera, era proprio il 4 novembre l'election. Beh, Michelle non poteva chiamare l'election quella sera. Day, no, aveva altre cose da fare. L'ha ringraziata della forza e della grazia dimostrata nel ruolo del First Lady. È difficile essere contrari durante gli 8 anni della presidenza del marito George. Laura ha invitato Michelle e le figlie Melia e Sasha alla Casa Bianca nelle prossime settimane, così tanto per prendere le misure di dove sistemare gli armadi. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Giacomo Spunta, Jefferson Ming @radio24.it per scriverci. Andiamo in replica stasera alle 9 oppure domani qui alle 4 su Radio 24. Yeah.